Effetto Mondo. Eccoci qua, Giulia, ciao. Buongiorno. Ben ritrovata, Giulia. Allora, da dove vuoi cominciare oggi? Allora, prima di tutto, no, volevo dirti, mentre sentivo Carlo parlare, deve essere un'esperienza stranissima quella di una partita senza pubblico. Mi piacerebbe essere un piccolo ragnetto che riesce a entrare allo stadio. Sicuramente si sente il rimbombo della palla. Anche per i giocatori, sì. Stranissimo. No, negli Stati Uniti di questo non si parla, per ora, degli eventi di sport, però inizierei da lì perché quello che è successo ieri alla borsa di New York, che resta la borsa più importante al mondo, è il titolo del Wall Street Journal, è il titolo di, oltre anche a essere quello di Financial Times, il New York Times in realtà parla anche della crisi in Siria, ma ha un titolo spiegando che è il tuffo, perché la parola in inglese è questa, il dive, quindi il crollo più veloce, più repentino dal 2011 dell'indice di Wall Street. E Donald Trump però non sembra particolarmente preoccupato. Abbiamo sentito la conferenza stampa di ieri, ha fatto altre dichiarazioni, cioè dell'altro ieri, scusate, ha fatto altre dichiarazioni. Ne abbiamo un pezzettino che è stato ripreso dal network NBC, che non è particolarmente ostile a Donald Trump, però in questo caso hanno analizzato alcune delle sue prime reazioni, considerandole francamente fuori dal mondo. Non c'è Donald Trump. Sì, c'è un po' di ritardo in regia, arriva. Okay. I really think the stock market of something I know a lot about. I think it took a hit maybe for two reasons. I think they look at the people dice, that io watch la, la borsa, lo stock market lo conosco molto bene, lui si vanta sempre del suo passato di imprenditore. Ricordiamo per inciso, so che tra gli ascoltatori ci sono anche dei sostenitori di Trump. Ricordiamo per inciso che Trump continua a rifiutarsi di mostrare le sue dichiarazioni dei redditi, che farebbero vedere come molte delle sue società che lui loda in continuazione in realtà spesso hanno chiuso in perdita. Detto questo, dice, io le borse le conosco molto bene, sì è vero, ieri c'è stato un bel crollo, ma le ragioni secondo me sono due. E poi in realtà ne cita una sola, e già questo mi fa così, mi ha messo quasi di buon umore per non piangere in realtà ascoltandolo, e dice, secondo me gli operatori di borsa e gli analisti hanno guardato i recenti dibattiti dei democratici, ricordiamo tra l'altro che domani ci sono le primarie in Carolina del Sud, e si sono talmente spaventati all'idea che forse il prossimo presidente potrebbe essere uno di quelli che ma lo ha detto seriamente. Questa però posso dire non è male come battuta, no, lo so, come solo battuta che appunto e sai e che quindi... mi ricorda un po' Berlusconi quando anche lui si piccava di conoscere il funzionamento della borsa, perché è un uomo d'affari eccetera eccetera. Trump usa questo argomento per dire un po' quello che gli pare poi, sì, fondamentalmente poi... oggi, giusto, scusa per chiudere, sì, perché parliamo di borsa, però i listini europei stanno affondando letteralmente, per cui meno 3, meno 4. Tra l'altro il Washington Post, per esempio, che tra l'altro fa un collage di foto, e una è anche scattata in Italia per far vedere a Piacenza, una tenda della protezione civile, per far vedere come la vita sia un po' da una parte cambiata, ma dall'altra si cerchi anche di andare avanti, quindi tante foto di persone con mascherine, e poi c'è questo titolo, il crollo del Dow Jones è un rischio politico per Trump. L'altro fronte naturalmente è quello del coronavirus, perché per esempio in California potrebbe esserci il primo focolaio, ma il Washington Post spiega, attenzione, ricordiamoci che negli Stati Uniti ci sono 90 milioni di persone che non hanno un'assicurazione, e siccome negli Stati Uniti non altro c'è che tamponi, un sistema sanitario nazionale, se per caso dovesse esserci un'urgenza di fare tamponi, queste persone dovrebbero farlo al costo di circa $3,000, e se non hanno un'assicurazione quasi certamente perché non possono permettersela, quindi neanche il tampone. A quel punto si potrebbe obbligare le assicurazioni, ma le assicurazioni avrebbero dei problemi, quindi è una questione molto complessa. E sempre dalla NBC, visto che comunque insomma gli Stati Uniti sono, ripetiamo, è il mercato, la borsa più importante del mondo, sono la prima economia mondiale, specie adesso che la Cina ha preso questa batosta, sentiamo che cosa dice a una trasmissione della NBC uno dei 37 psichiatri che tra l'altro ha scritto un libro mettendo in dubbio la salute mentale di Trump. This man is about himself. He really is not about the country, he's not about public health. Dice ascoltare appunto la reazione di Trump dovrebbe farci capire plasticamente a tutti noi che quest'uomo riesce a pensare solo a se stesso, è sempre autoreferenziale, non gli importa della salute del paese, non gli importa della salute pubblica, non gli importa della vita delle persone. E, ripeto, è il parere di questo signore, questo psichiatra di Harvard, della Harvard Medical School, quindi non di una scuola per corrispondenza di disturbi psicologici. Perciò, insomma, forse dovremmo tutti un po' preoccuparci. Ma siccome dicevi tu, c'è chi ci accusa di aver esagerato, vi assicuro che oggi è praticamente il titolo su tutti i giornali e c'è particolare allarme in Sudafrica perché ci sono i primi casi probabilmente non confermati e il Citizen, che è questo quotidiano di Johannesburg, dice chiaramente coronavirus, due punti, we are not ready, perché il tema dei sistemi sanitari nazionali di tanti paesi africani, che sono più di 150, è effettivamente va discusso, va portato al centro del dibattito perché sono dati di fatto. E tra l'altro dato in dato, aggiungo solo questo, un'agenzia di pochi minuti fa, il presidente della Lombardia Fontana, che dice all'Odi 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva, una situazione abbastanza preoccupante. Senti, invece, venendo ai giornali, Japan Times ci dà come dire, una lettura di queste Olimpiadi, no? Cioè, si fanno, ma cosa scrivono? Perché sembra un balletto anche questo un po', sì, no? Visto che sappiamo che fiere di aprile come il Salone del Mobile sono state cancellate, i giochi olimpici cominciano in realtà all'inizio dell'estate, però non è poi tanto più in là, e quindi si era detto anche qualcuno sta pensando di rimandarli. Japan Times, quotidiano in inglese che è una partnership con il New York Times, ha un titolo a tutta pagina: no, la maggior parte dei segnali dicono che non è probabile, attenzione a questa espressione, che i giochi siano cancellati per colpa del virus. Contemporaneamente sappiamo il premier Abe, Shinzo Abe, ha chiesto la chiusura di tutte le scuole, e questo, siccome si unisce a una vacanza primaverile un po' l'equivalente delle nostre vacanze pasquali, vuol dire che per il prossimo mese tutte le scuole giapponesi resteranno chiuse. Pensate l'incubo per i genitori. E poi si parla anche invece di questo homeschooling, sì, che invece continua in Cina. Pensate che sono 180 milioni i bambini che in questo momento non soltanto sono a casa da scuola in Cina, ma appunto hanno ormai questa abitudine, si alzano al mattino, accendono il computer e fanno le lezioni via digitali. Mi piacerebbe essere lì e vederlo, poterlo verificare in qualche modo. Beh, noi qua se ne parla e basta. In realtà, le mie però, figlie non fanno assolutamente nulla online. Ho visto su TikTok e altri social che ci sono poi delle foto di bambini che crollano sulla tastiera del computer. Vabbè, perché insomma mi sembra anche giusto. Dove ci porti adesso, in Europa o in Israele, dove? Ma se vuoi, sì, c'è questa, i giornali israeliani in realtà non danno così tanta enfasi, ho un po' paura che l'abbiamo presa un po' male, siamo un po' ipersensibili, perché in realtà Israele ha chiesto a tutti i suoi blocco, esatto, dici, il blocco totale. Perciò ha molto spazio le ultime ore del dibattito tra i candidati, perché lunedì Israele torna a votare, una campagna elettorale che tutti i quotidiani definiscono ormai veramente degenerata, si insultano davanti a tutti Bibi Netanyahu e Gantz. Anche in Israele c'è naturalmente l'emergenza coronavirus, scusatemi, e poi c'è molto spazio per questo annuncio che ha fatto Bernie Sanders, che ha detto: se sarò eletto io riporto l'ambasciata americana a Tel Aviv e la tolgo da Gerusalemme, che è stata una mossa che aveva fatto Trump, Trump, ed insomma non aveva riscosso il favore dei palestinesi. A proposito di Sanders e Trump, se riusciamo, l'Economist di questa settimana ha una doppia copertina, non succede spesso, una è per gli Stati Uniti ed è una caricatura di Trump e Sanders, che sono tra l'altro quasi coetanei, sono al capezzale di una persona evidentemente malata che però è lo zio Sam, come dire le due ipotesi insomma non piacciono né Trump né Sanders alle Economist. La copertina invece per il Regno Unito e quindi per tutto il mondo che vuole leggere il settimanale inglese è dedicata al coronavirus, e c'è il mondo al centro e poi tutto intorno dei piccoli tentacolini che ci ricordano questa immagine che ormai conosciamo del virus. La foto proprio del virus. Abbiamo ancora poco meno di un minuto. Ma se vuoi in Francia, porto un attimo in Francia, perché invece qui continua naturalmente il tema delle elezioni municipali, e poi su Le Monde, dico, mi sembra anche giusto, si parla anche, come abbiamo fatto qui noi ieri, come faceva ieri il Financial Times, di questi disordini a New Delhi. Sono il bilancio per ora di 34 morti e 330 feriti gravissimi. Non si vede la fine di questa crisi, e a questo punto, al posto delle, diciamo, milizie paramilitari che aveva impiegato fino a qui il premier Modi, probabilmente scenderà in strada l'esercito. Ricordiamo che Delhi è una megalopoli, quindi controllare un qualsiasi tipo di rivolta in una città così è un po' come farlo a Hong Kong. Abbiamo visto che non è stato facile. Giulia Crivelli, grazie per essere stata con noi. Buon weekend anche agli ascoltatori. Ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo con Jacopo De Franchi in redazione, oggi Andrea Roccabella in regia. Noi ci risentiamo tra poco alle 14 per l'aggiornamento. Intanto da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata e di buon weekend.